vorrei parlare di te e raccontare perché tu sei un pianeta per me. Le discussioni con te a volte picchiano, sai, come l'inverno per noi. Quando ferisci il mio orgoglio, ghiacciando il cuore, ma poi riscaldi tutto come il sole, nelle cose può bruciare, può scaldare, può arginare. Mi fa impazzire perché diventa estate quando è tuo corpo sopra di me. Amore nelle stagioni di te.